Capitolo VII. L'Eterno. Pim. Avete detto che siamo potenti solo quando siamo presenti nell'ora. Potete parlarci dell'ora, dell'Eterno? L'ora universale e l'Eterno. Guide e maestri. L'Eterno è la vera realtà di tutte le cose, nel senso che tutto accade qui e ora. La vostra mente non riesce a cogliere il senso di questa affermazione. Non a caso la vostra mente funziona basandosi sulla percezione del tempo, dello spazio, e della linearità. L'eternità può essere intuita quando il vostro io fisico è collegato con la vostra nota originaria, con il vostro io interiore, anima. Il collegamento tra io fisico e io interiore, e la presenza consapevole nell'ora, vi mette in connessione con tutto ciò che è. Tutto ciò che è, ora, e qui. A livello di frequenza tutto è creato istantaneamente. Tutte le possibilità sono presenti qui e ora. Passato e futuro sono uno ed esistono nel momento presente. Il ricordo di un evento è legato alla frequenza, e all'immagine di ciò che state ricordando ora, e ciò che vedete nel vostro futuro è legato alla frequenza del pensiero che state pensando, e all'immagine che state immaginando ora. È tutto qui ora. È solo e unicamente una questione di accordo, di frequenza, non di tempo. Conversazione sull'Eterno. Il tempo e lo spazio. Pim. Se esiste solo l'ora, l'Eterno, perché questo pianeta è stato creato con l'idea di tempo? Guide e maestri. Il tempo e lo spazio sono stati ideati da tutti noi, l'uno, per darci la possibilità di creare in maniera dettagliata e particolare. Abbiamo creato una cornice fatta di spazio-tempo, attraverso la quale possiamo pianificare, decidere, scegliere, concentrare la nostra mente in maniera precisa e continuativa. La sensazione del tempo è semplicemente un tramite, attraverso il quale la vostra mente, se guidata con costanza, riesce a concentrarsi in maniera dettagliata. Pim. I ritmi della vita su Gaia sono spesso così frenetici che sembra che non ci sia mai abbastanza tempo. Guide e maestri. Quando avvertite la pressione del tempo, è perché siete in disarmonia con la vostra natura di creatori. Il tempo è al vostro servizio, non il contrario. La sensazione del tempo può allargarsi o restringersi, a seconda della vostra percezione e dei blocchi presenti. A livello pratico, certamente ci sono delle richieste, conti da pagare, scadenze, compleanni, questo e quello. Tutto legato allo scorrere del tempo, giorno e notte, eccetera. Ancora una volta, come state percependo questa sfaccettatura della vostra discesa in terra? Non ho mai abbastanza tempo. Non ho tempo di fare questo o quello. Il tempo che ho a disposizione sta finendo velocemente. Non ho mai tempo di fare le cose che vorrei. Tutto il mio tempo va a finire nel soddisfare le richieste altrui. Devo dedicare la maggior parte del mio tempo alle responsabilità. Se non mi sbrigo, le cose si metteranno male. Devo trovare una soluzione adesso, altrimenti chissà che succederà. Se non trovo la soluzione ora non potrò sentirmi meglio. Questi sono solo alcuni esempi di un certo tipo di percezione del tempo, legata a paura e mancanza, e a paura del futuro. Pim. Capisco ciò che dite. Ma le frasi che avete usato come esempio descrivono situazioni molto reali e comuni nella realtà che viviamo. Come possiamo eliminare paura e mancanza, e paura del futuro, dalla percezione del tempo? Guide e maestri. Ognuna di quelle frasi può essere cambiata in un'affermazione positiva, che vi darà una sensazione di serenità e di possibilità, invece che di agitazione e ansia. La percezione del tempo non è stata creata per far nascere paura. Siete voi che create la paura attraverso le vostre convinzioni e pensieri. State resistendo il flusso naturale del vostro benessere. La fretta è legata alla paura di ciò che potrebbe arrivare. Paura del futuro. Agire di fretta per sollevarsi dal senso di ansia non è mai raccomandabile. Cercare un senso di serenità e positività prima di agire è ciò che vi porterà nella direzione desiderata. Ricordate che se aspettate che le condizioni esterne siano di vostro gradimento prima di provare sollievo, vi troverete sempre in balia di ciò che è incontrollabile. Il senso di sollievo e pace sarà unicamente temporaneo. Il primo passo è sempre interiore, l'esteriore è il risultato finale. L'esteriore è l'effetto del vostro cambiamento interiore. Il potere è completamente in voi. La sensazione di tempo è solo una sensazione, una percezione, un mezzo attraverso il quale la creazione può avvenire in maniera precisa. È anche un mezzo, attraverso il quale ci diamo la possibilità di rifinire la nostra creazione a livello di frequenza, prima che si manifesti nella realtà fisica. L'eterno e il processo creativo. Pim. Se capisco bene, state dicendo che tutto esiste qui e ora, che noi siamo esseri eterni, e che quindi ogni separazione è illusoria. Dite anche che la dimensione dove siete voi, o dove sono ora coloro che hanno vissuto su Gaia e sono tornati in cielo, è già qui, presente. Percepire in questo modo l'eterno, dove tutto già esiste, e dove tutto è compreso, mi fa venire in mente che non perdersi nel passato o nel futuro, ma restare nell'ora, nell'eterno, ha molto a che fare con il nostro potere creativo. È così? Guide e maestri. Esattamente. Solo nel momento presente, solo quando siete consapevolmente presenti nell'ora, potete entrare in contatto con il vostro potere creativo. È solo nell'ora che il vostro io fisico e la vostra nota originaria, io interiore, o anima, possono lavorare in connessione, uniti nella stessa direzione, con la mente al vostro servizio. Ed è solo così che il potere creativo è accessibile. Quando lasciate che la mente corra libera nel passato o nel futuro, non siete qui e ora, dove tutto è, dove il potere dell'uno è pronto ad assistervi. Se volete ricordare immagini piacevoli del passato, immagini di esperienze che vi hanno servito positivamente, fatelo, ma nell'ora e con la vostra presenza. Siate coscientemente presenti. Lo stesso vale per il futuro. Siate qui e ora in creazione di ciò che desiderate. Immaginate, visualizzate, ma con la consapevolezza piena del qui e ora. Il potere dell'ora. Pim. Vorrei capire meglio il concetto del potere connesso all'ora, all'eterno. Guide e maestri. L'unica relazione importante e necessaria al vostro percorso su Gaia è la relazione con la vostra nota originaria, l'uno in voi. Tutto il resto, tutto ciò che è esterno a voi, è specchio, è servizio, è un punto di riferimento per vedere, per farvi rendere conto del punto in cui siete, e della connessione con la vostra nota originaria. Tutto ciò che è esterno a voi è una sfaccettatura di voi stessi che vi guarda in ritorno per indirizzarvi. Ecco perché tutto è uno, e tutto è servizio. Quell'uno in voi è lo stesso uno dell'albero, dello spazzino, dell'uccello, dello scienziato. Non c'è alcuna separazione. Ricordate quando vi abbiamo detto che siete colui che dona e colui che riceve? Tutto è qui ora. Quando siete nell'ora presente, e connessi con la vostra nota originaria, sapete al di là di ogni dubbio che ciò che desiderate già è, e che siete solo voi, in unisono con tutto ciò che è, che decidete di donarvelo e di riceverlo. La legge dell'attrazione dei simili ve lo porterà su un vassoio d'argento. Pim. Mi piace quello che dite, ma ciò che crediamo su Gaia è ben diverso. Per ricevere qualcosa, ce lo dobbiamo guadagnare, il che vuol dire che nella migliore delle ipotesi dobbiamo convincere gli altri, e a volte addirittura manipolarli o imbrogliarli. Guide e maestri. Non c'è bisogno di convincere nessuno, di manipolare nessuno, di imbrogliare nessuno. Tutti questi movimenti energetici nascono da un'illusione di separazione, dalla paura che non ci sia mai abbastanza. Questi sono i movimenti dell'ego, non dello spirito. Abbiamo scritto la parola ricevere in lettere maiuscole, per il semplice fatto che la ricezione dipende dal livello di convinzioni energetiche che abbiamo, rispetto ad un determinato argomento. Ciò che intendiamo dire è che siamo i creatori della nostra realtà. Facciamo esperienza, desideriamo il miglioramento espansione. E quel desiderio con quella particolare nota si organizza in modo tale da potersi manifestare su Gaia. A quel punto la ricezione, la manifestazione, dipende dalla parte di noi incarnata nel corpo fisico. Noi siamo colui che crea e colui che riceve. Quali sono le nostre convinzioni, al nostro livello di essere incarnati su Gaia? Perché sono le nostre convinzioni a livello umano, che decideranno la velocità con la quale ci daremo il permesso di ricevere ciò che la parte di noi non incarnata ha già creato completamente a livello di nota. Siamo in completo controllo del nostro universo, della nostra realtà. Abbondanza senza limiti. Pim. Su Gaia pensiamo che le risorse sono limitate, e quindi la paura che non ci sia abbastanza è assolutamente naturale. Le prove della scarsità sono ogni giorno davanti ai nostri occhi umani. Non c'è lavoro per chi lo cerca e ne ha bisogno, ci sono nazioni dove si muore per mancanza di cibo, ci sono senza tetto che vivono e dormono sui marciapiedi delle nostre città. C'è poi su Gaia chi agisce come se le risorse fossero illimitate, e chi invece si oppone chiedendo con forza di risparmiare energia, di rispettare la natura senza privarla delle foreste, di limitare la pesca in modo sostenibile. Queste richieste a me sembrano sagge, e in qualche modo si basano sull'idea che le risorse non sono illimitate. Anche in questi casi la paura è sbagliata, e negativa? Guide e maestri. La paura è sempre resistenza, a meno che non sia un istinto di sopravvivenza, e in quel caso sarebbe meglio chiamarla forte intuizione. La parola negativo è, di per sé, la negazione del suo opposto, positivo. Non desideriamo perderci nelle parole, quello che desideriamo fare è portare sollievo e luce. Ciò che si osserva sul pianeta esiste perché è creato da un singolo individuo, da gruppi, da popoli, da nazioni. La povertà estrema in alcune nazioni è creata da uno specifico livello di consapevolezza, di nota e di frequenza. Stiamo con questo dicendo che l'osservazione di queste circostanze dovrebbe lasciarvi indifferenti? Assolutamente no. Quella circostanza di povertà estrema, di richiesta di servizio e di assistenza, è il motore del desiderio fortissimo che nasce in coloro che si concentrano sull'aiuto, sulla soluzione, sul servizio. Senza l'osservazione di quella situazione particolare, come potrebbe nascere quel particolare desiderio? Le vostre lacrime di compassione non scenderebbero, il vostro cuore non si espanderebbe. Se tutto fosse perfetto e completo, come potremmo continuare a crescere? Dal punto di vista unicamente umano, ci sono in questo ora nel pianeta milioni di persone che stanno facendo esperienza di risorse limitate, di povertà, di mancanza. Questa è la loro esperienza, anzi questo è il loro servizio verso coloro che desiderano fare esperienza di aiuto, di servizio e di compassione. Dal punto di vista dell'uno, della vostra nota originaria, non c'è limite a niente. C'è unicamente una manifestazione di limite, di scarsità. Quando la consapevolezza di quella nazione particolare si espanderà in un nuovo territorio vibrazionale, dove percepiranno l'abbondanza come possibile e reale, quell'abbondanza si manifesterà sul piano fisico. State già cominciando ad osservare come nazioni considerate in ora passati come terzo mondo, stanno espandendosi e evolvendosi verso una direzione di prosperità. E potete anche osservare come nazioni che sono state sempre considerate come abbondanti stanno manifestando una situazione, una consapevolezza di scarsità. Pim. Perché questo avviene? Guide e maestri. Perché la manipolazione e l'imbroglio sono segni di una coscienza basata su convinzioni di scarsità e mancanza. Si imbroglia, si inganna e si manipola, unicamente quando si pensa che non ci sia abbastanza per tutti. Pim. Vedere persone vivere e dormire sui marciapiedi, perché non hanno una casa può certamente far nascere, come voi dite, il desiderio di cambiare questa realtà creando per loro spazi per dormire protetti e al sicuro, e opportunità di lavoro, e altro. Quello che proprio non capisco invece è il servizio che i senzatetto fanno a loro stessi. Se i senzatetto possono far nascere in noi il desiderio di essere servizio, quale desiderio può nascere in loro? O, in altre parole, se è vero che scegliamo il nostro programma in relazione alla crescita che desideriamo compiere nella nostra esperienza terrena, perché la scelta di essere senzatetto, o la scelta di nascere dove c'è guerra, o estrema povertà? La risposta che mi viene in mente è una specie di punizione divina per peccati commessi in vite passate, ma ci avete detto che l'uno è solo amore e non punisce né giudica. E quindi la mia risposta è sbagliata. Ma allora, qual è la risposta? Guide e maestri. C'è solo amore, un amore infinito, completo e allo stesso tempo in continua espansione. Non esistono peccati, punizioni, espiazione. C'è solo amore. Coloro che decidono di incarnarsi in una situazione di povertà assoluta, o di guerra, decidono di farlo con un'intenzione chiara e definita di crescita. L'uno in loro è pienamente consapevole dei doni, dei desideri, che le vibrazioni, le note particolari di quegli ambienti forniranno durante il loro cammino. Le circostanze che sembrano disumane agli occhi di tanti, stanno risvegliando, in coloro che le stanno vivendo, desideri di inimmaginabile trasformazione in loro stessi, e in chi è interessato interiormente a fare esperienza del dono di essere servizio. È veramente tutto in perfetto ordine. Ma solo gli occhi dello spirito, dell'uno, del cuore, sono in grado di riconoscerne la perfezione. In tale perfezione risiedono le lacrime, il grande desiderio di aiutare, di trasformare, di tendere la mano. Pensate a Madre Teresa e le sue sorelle, solo per fare un esempio. Per voi, non è semplice relazionarvi a situazioni di questo tipo, perché la vostra vibrazione in questo ora, e la vibrazione di chi è senza tetto, o di chi vive in una situazione di guerra e violenza, sono due mondi a sé. Dal vostro punto di vista umano vorreste che quel mondo sparisse, vi mette a disagio, non lo comprendete, ne sentite il dolore, la tristezza, la disperazione. In termini umani non riuscite a farvene una ragione. Voi al posto loro morireste. E infatti voi non siete scesi con una sfaccettatura dell'uno pronta ad immergersi in quella realtà. La vostra sfaccettatura dell'uno è scesa pronta ad immergersi nella realtà dove siete. Note diverse, sinfonie diverse. Coloro che scendono con l'intenzione di essere servizio sono a loro volta connessi a livello di nota e sinfonia con coloro che richiedono, che desiderano che gli venga offerto servizio ed assistenza. Le loro sfaccettature dell'uno sono complementari. Le sinfonie in perfetta armonia. Siate certi che coloro che sono senza tetto, o che vivono in situazioni di violenza e guerra, sono costantemente assistiti, come tutti, dal loro io interiore. Il dono più grande che può essere offerto a chi ha scelto passaggi terreni di grande intensità è di essere riportato a se stesso, alla divinità che lo abita, al ricordo. Ancora una volta, all'amare se stessi. Pim. Cosa possiamo fare praticamente per evitare di concentrarci sulla paura della scarsità? Guide e maestri. Gaia vi offre in ogni istante l'opportunità di fare delle scelte differenti. Pensate a chi desidera una fonte di energia alternativa, a chi sta sviluppando tecnologie pulite, a chi lavora incessantemente in contatto con l'universo alla ricerca di nuove idee. Le loro ispirazioni sono state i disastri ambientali, e il comportamento delle compagnie petrolifere che controllano il prezzo del petrolio. È sempre e comunque servizio, da entrambe le parti. L'uno non può esistere senza l'altro, perché c'è unicamente l'uno. Se decidete di osservare con occhi di limitatezza e scarsità, farete esperienza di limitatezza e scarsità. Se decidete di osservare con gli occhi di illimitatezza e abbondanza, farete esperienza di illimitatezza e abbondanza. Torniamo sempre alla base di tutto. Siete creatori che creano attraverso il pensiero. Ciò che pensate è. Pim. Su Gaia siamo abituati ad affrontare le prove della vita con l'aiuto della mente razionale. Tanta energia è dedicata a coltivare il sapere logico, e a me sembra un'ottima cosa. Ma comincio a intuire che ci farebbe bene imparare ad usare anche il cuore, o ad aprirlo, come dite voi. Guide e maestri. La logicità senza la guida della vostra nota originaria, del vostro cuore, è fine a se stessa. La nota originaria, il suono di cui spesso parliamo, risiede in grande concentrazione nel vostro organo fisico chiamato cuore. La nota originaria è amore incondizionato verso voi stessi, e amore incondizionato verso tutto ciò che è. È assenza completa di giudizio. Per prima cosa, riconoscete l'uno in voi stessi, e poi lo comincerete a vedere in tutto. Il movimento di riconciliazione, di riaccordo con la vostra nota originaria avviene così. È per questa ragione che abbiamo cominciato queste conversazioni con l'amare se stessi. Quando amo me stesso completamente, e vedo la luce infinita che mi abita, e ascolto il suono della mia nota originaria, ricordo e ascolto di conseguenza il suono della nota originaria universale dell'intera creazione. A quel punto, la paura di questo o di quello, cessa di essere, o almeno viene adeguatamente trasformata volta per volta. Quando vedete Dio in voi stessi, e Dio ovunque, e in chiunque, che paura c'è? Vi è stato insegnato che Dio è separato da voi. Vi è stato addirittura insegnato che non potete raggiungerlo in alcun modo, che avete bisogno di intermediari. Voi siete Dio in un corpo fisico, e così chiunque altro, tutto, l'intera creazione, fisica e non fisica. Noi siamo Dio, l'albero nel vostro giardino è Dio. Quando riuscite a riconoscere il Dio in voi, e ad amarvi incondizionatamente, riuscirete a vedere Dio ovunque, e quell'osservazione vi metterà in contatto con la divinità espansa. A quel punto, anche se chi vi è di fronte non riuscirà ad armonizzarsi con quella stessa energia di amore e offrirà movimenti egoici, riuscirete comunque a riconoscere il movimento egoico come qualcosa di fine a se stesso. Certamente questa è tutta pratica. È per questo che state sul pianeta. Siete su Gaia perché volete praticare il suono della vostra nota originaria. È solo quando non ascoltiamo la nostra natura profonda che ci sentiamo in disaccordo, che ci impauriamo, che ci fermiamo, o agiamo in direzioni che non sono fluide. La crescita gioiosa è un prodotto dell'amare se stessi. La crescita gioiosa è anche il prodotto del creare in armonia con la nostra nota originaria. Pim. Se riusciamo ad ascoltare il suono della nostra nota originaria, se impariamo a seguire la guida del cuore, il nostro modo di vivere la vita cambia? Guide e maestri. Quando ci muoviamo sul pianeta con quell'accordo originario, tutto ciò che è vita, tutto ciò che è praticità, diventa infuso di piacere, divertimento, gioia, felicità, abbondanza, efficienza, flusso, sincronicità, crescita, e possibilità di ogni genere. In poche parole, non vediamo l'ora di alzarci e cominciare il nuovo ora. Come vi sentite quando aprite gli occhi al mattino? Domanda interessante. Vi svelerà molto. Ancora una volta è stata una bella conversazione. C'è solo amore ed espansione gioiosa.